cor andare, madamu. C'è st'onore on garavan, ti agapiti chiamu. C'è st'onore on garavan, ti agapiti chiamu. Porto cagliamo fundo di merifchi stusa su su. Porto cagliamo fundo di merifchi stusa su su. C'è ioni e genitica na pinno tu scamu su. C'è ioni e genitica na pinno tu scamu su. Con vota molto carava, la stisonani di offiri. Con vota molto carava, la stisonani di offiri. Navgeni ston beribadon, la se filostacili. Navgeni ston beribadon, la se filostacili. Porto caglia du carava, medusa tu su pano. Porto caglia du carava, medusa tu su pano. Anertisme stangagliamo, Vasilissa se gamno. Anertisme stangagliamo, Vasilissa se gamno.